20 settembre di Il giornalino di Gian Burrasca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Simona Pagliari, Cagliari, Italia. Il giornalino di Gian Burrasca. Di Vamba. 20 settembre. Ecco fatto. Ho voluto ricopiare qui, in questo mio giornalino, il foglietto del calendario d'oggi, che segna l'entrata delle truppe italiane in Roma, e che è anche il giorno che sono nato io, come ci ho scritto sotto, perché gli amici che vengono in casa si ricordino di farmi il regalo. Ecco intanto la nota dei regali avuti finora. Primo. Una bella pistola da tirare al bersaglio che mi ha dato il babbo. Secondo, un vestito a quadrettini che mi ha dato mia sorella Ada, ma di questo non me ne importa nulla, perché non è un balocco. Terzo, una stupenda canna da pescare con la lenza e tutto l'occorrente e che si smonta e diventa un bastone, che mi ha dato mia sorella Virginia. E questo è il regalo che mi ci voleva, perché io vado matto per la pesca. Quarto, un astuccio con tutto l'occorrente per scrivere e con un magnifico lapis rosso e blu, regalatomi da mia sorella Luisa. Quinto, questo giornalino che mi ha regalato la mamma e che è il migliore di tutti. Ah sì, la mia buona mamma me ne ha fatto uno proprio bello, dandomi questo giornalino perché ci scrive i miei pensieri e quello che mi succede. Che bel libro, con la rilegatura di tela verde e tutte le pagine bianche, che non so davvero come farò a riempire. Ed era tanto che mi struggevo di avere un giornalino mio, dove scriverci le mie memorie, come quello che hanno le mie sorelle Ada, Luisa e Virginia, che tutte le sere, prima di andare a letto, coi capelli sulle spalle e mezze spogliate, stanno a scrivere delle ore intere. Non so davvero dove trovino tante cose da scrivere quelle ragazze. Io invece non so più cosa dire. E allora come farò a riempire tutte le tue pagine bianche, mio caro giornalino? Mi aiuterò con la mia facilità di disegnare e farò qui il mio ritratto come sono ora, all'età di 9 anni finiti. Però, in un giornalino bello come questo, bisognerebbe metterci dei pensieri, delle riflessioni. Mi viene un'idea. Se ricopiassi qui un po' del giornalino di Ada, che giusto è fuori insieme alla mamma a far delle visite? Ecco qui, sono andato su in camera di Ada, ho aperto la cassetta della sua scrivania, le ho preso il suo giornale di memorie e ora posso copiare in pace. Oh, se quel vecchiaccio del Capitani non tornasse più! Ed invece è venuto anche stasera. È impossibile, non mi piace. Non mi piace e non mi piacerà mai, mai. La mamma ha detto che è molto ricco e che se mi chiedesse in moglie dovrei sposarlo. Non è una crudeltà questa? Povero cuore mio, perché ti mettono a tali torture? Egli ha certe mani grandi e rosse e col babbo non sa parlar d'altro che di vino e di olio, di campi, di contadini e di bestie. E se lo avessi veduto almeno una volta vestito a modo? Oh, se questa storia finisse, se non tornasse più, mi metterei l'anima in pace. Iersera, mentre l'accompagnavo all'uscio ed eravamo soli nella stanza d'ingresso, voleva baciarmi la mano. Ma io fui pronta a scappare e rimase con un palmo di naso. Ah no, io amo il mio caro Alberto De Renzis. Che peccato che Alberto non sia altro che un misero impiegatuccio. Mi fa continuamente delle scenate e io non ne posso più. Che delusione la vita. Mi sento proprio infelice. E ora basta, perché ho empito 2 pagine. Ti riapro prima di andare a letto, giornalino mio, perché stasera m'è successo un affare serio. Verso le 8, come al solito, è venuto il signor Adolfo Capitani. È un coso vecchio, brutto, grosso, grosso e rosso. Le mie sorelle hanno proprio ragione di canzonarlo. Dunque, io ero in salotto col mio giornalino in mano, quando ad un tratto lui mi dice con quella sua vociaccia di gatto scorticato: «Cosa legge di bello il nostro Giannino?» Io naturalmente gli ho dato subito il mio libro di memorie ed egli si è messo a leggerlo forte davanti a tutti. Da principio la mamma e le mie sorelle ridevano come matte. Ma appena incominciato a leggere il pezzo che ho copiato dal giornalino di Ada, questa si è messa a urlare e faceva di tutto per strapparglielo di mano. Ma lui duro! Ha voluto arrivare fino in fondo e poi, serio serio, mi ha detto: «Perché hai scritto tutte quelle sciocchezze?» Io gli ho risposto che non potevano essere sciocchezze, perché le aveva scritte nel suo libro di memorie Ada, che è la mia sorella maggiore, e perciò ha più giudizio di me e sa quello che dice. Appena detto questo, il signor Capitani si è alzato serio serio, ha preso il cappello e se n'è andato via senza salutare nessuno. Bella educazione! E allora la mamma, invece di pigliarsela con lui, se l'è presa con me, gridando e minacciando, e quella stupida di Ada si è messa a piangere come una fontana. Andate a far del bene alle sorelle maggiori. Basta, sarà meglio andare a letto. Ma intanto sono contento perché ho potuto empire 3 pagine zeppe del mio caro giornalino. Fine del 20 settembre.